Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. C'era stato un tempo, raccontò Nuto, che quando lui passava a Canelli per quella strada dietro il cinema, guardava in su se le tendine si muovevano. La gente ne dice tante. Alla mora ci stava già Nicoletto e Santa, che non poteva soffrirlo, appena morta la madre era scappata a Canelli, s'era presa una stanza e aveva fatto la maestra. Ma col tipo che lei era, aveva subito trovato da impiegarsi alla casa del fascio e dicevano di un ufficiale della milizia, dicevano di un podestà, del segretario, dicevano di tutti i più delinquenti là intorno. Così bionda, così fina, era il suo posto salire in automobile e girare la provincia, andare a cena nelle ville, nelle case dei signori, alle terme d'acqui. Non fosse stata quella compagnia. Nuto cercava di non vederla per le strade, ma passando sotto le sue finestre, alzava gli occhi alle tendine. Poi, con l'estate del 43, la bella vita era finita anche per Santa. Nuto, che era sempre a Canelli a sentire notizie e a portarne, non aveva più alzato gli occhi alle tendine. Dicevano che Santa era scappata col suo capomanipolo a Alessandria. Poi era venuto settembre, tornati i tedeschi, tornata la guerra, i soldati arrivavano a casa per nascondersi, travestiti, affamati, scalzi, i fascisti sparavano fucilate tutta la notte, tutti dicevano si sapeva che finiva così, era cominciata la Repubblica. Un bel giorno Nuto sentì dire che Santa era tornata a Canelli, che aveva ripreso l'impiego alla casa del fascio, si ubriacava e andava a letto con le brigate nere. Non ci aveva creduto, fino alla fine non ci aveva creduto. La vide una volta traversare sul ponte, veniva dalla stazione, aveva indosso una pelliccia grigia e le scarpe felpate, gli occhi allegri dal freddo. Lei l'aveva fermato. «Come va al salto? Suoni sempre?» «Oh, Nuto, avevo paura che fossi anche tu in Germania. Deve essere brutto su di lì. Vi lasciano tranquilli?» A quei tempi traversare Canelli era sempre un azzardo. C'erano le pattuglie, i tedeschi. E una ragazza come Santa non avrebbe parlato in strada con un Nuto, non fosse stata la guerra. Lui quel giorno non era tranquillo. Le disse soltanto dei sì e dei no. Poi l'aveva riveduta al caffè dello sport. Lei stessa ce l'aveva chiamato uscendo sulla porta. Nuto teneva d'occhio le facce che entravano, ma era un mattino tranquillo, una domenica di sole che la gente va a messa. «Tu m'hai vista quando ero alta così?» diceva Santa. «Tu mi credi? C'è della gente cattiva a Canelli. Se potessero mi darebbero fuoco. Non vogliono che una ragazza faccia una vita non da scema. Vorrebbero che facessi anch'io la fine di Irene, che baciassi la mano che mi dà uno schiaffo. Ma io la mordo la mano che mi dà uno schiaffo. Gentetta che non sono nemmeno capace di fare i mascalzoni». Santa fumava sigarette che a Canelli non si trovavano. Gliene aveva offerte. «Prendine», aveva detto, «prendile tutte. Siete in tanti a dover fumare su di lì». «Vedi com'è?» diceva Santa. «Siccome una volta conoscevo qualcuno e ho fatto la matta, anche tu ti voltavi nelle vetrine quando passavo. Eppure hai conosciuto la mamma, sai come sono. Mi portavi in festa. Credi che anch'io non ce l'abbia con quei vigliacchi di prima? Almeno questi si difendono. Adesso mi tocca vivere e mangiare il loro pane, perché il mio lavoro l'ho sempre fatto, nessuno mi ha mai mantenuta. Ma se volessi dir la mia, se perdessi la pazienza...» Santa diceva queste cose al tavolino di marmo, guardando Nuto senza sorridere, con quella bocca delicata e sfacciata e gli occhi umidi e offesi come le sue sorelle. Nuto fece di tutto per capire se mentiva. Le disse perfino che sono tempi che bisogna decidersi, o di là o di qua, e che lui si era deciso. Lui stava coi disertori, coi patrioti, coi comunisti. Avrebbe dovuto chiederle di fare per loro la spia nei comandi, ma non aveva osato. L'idea di mettere una donna in un pericolo così e di metterci Santa non poteva venirgli. Invece a Santa l'idea venne e diede a Nuto molte notizie sui movimenti della truppa, sulle circolari del comando, sui discorsi che facevano i repubblichini. Un altro giorno gli mandò a dire che non venisse a Canelli perché c'era pericolo e infatti i tedeschi razziarono le piazze e i caffè. Santa diceva che lei non rischiava nulla, che erano vecchie conoscenze vigliacche che venivano da lei a sfogarsi e le avrebbero fatto schifo non fosse stato per le notizie che così poteva dare ai patrioti. Il mattino che i neri fucilarono i due ragazzi sotto il platano e ce li lasciarono come cani, Santa venne in bicicletta alla mora e di lì al salto e parlò con la mamma di Nuto. Le disse che se avevano un fucile o una pistola lo nascondessero nella riva. Due giorni dopo la brigata nera passò e buttò per aria la casa. Venne il giorno che Santa prese Nuto a braccetto e gli disse che non ne poteva più. Alla mora non poteva tornare perché Nicoletto era insopportabile e l'impiego di Canelli, dopo tutti quei morti, le scottava, le faceva perdere la ragione. Se quella vita non finiva subito, lei dava di mano a una pistola e sparava a qualcuno. Lei sapeva a chi, magari a se stessa. «Andrei anch'io sulle colline», gli disse, «ma non posso, mi sparano appena mi vedono. Sono quella della casa del fascio». Allora Nuto la portò nella riva e la fece incontrare con Baracca. Disse a Baracca tutto quello che lei aveva già fatto. Baracca stette a sentire guardando in terra. Quando parlò, disse soltanto «torna a Canelli». «Ma no», disse Santa, «torna a Canelli e aspetta gli ordini. Te ne daremo». Due mesi dopo, la fine di maggio, Santa scappò da Canelli perché l'avevano avvertita che venivano a prenderla. Il padrone del cinema disse che era entrata una pattuglia di tedeschi a perquisirle la casa. A Canelli ne parlavano tutti. Santa scappò sulle colline e si mise coi partigiani. Nuto sapeva adesso sue notizie a caso, da chi passava di notte a fargli una commissione, e tutti dicevano che girava armata anche lei e si faceva rispettare. Non fosse stato della mamma vecchia e della casa che potevano bruciargli, Nuto sarebbe andato anche lui nelle bande per aiutarla. Ma Santa non ne aveva bisogno. Quando ci fu il rastrellamento di giugno e per quei sentieri ne morirono tanti, Santa si difese tutta una notte con Baracca in una cascina dietro Superga e uscì lei sulla porta a gridare ai fascisti che li conosceva uno per uno tutti e non le facevano paura. La mattina dopo lei e Baracca scapparono. Nuto diceva queste cose a voce bassa. Si soffermava ogni tanto guardandosi intorno. Guardava le stoppie, le vigne vuote, il versante che riprendeva a salire. Disse: «Passiamo di qua». Il punto dove eravamo arrivati adesso nemmeno si vedeva da Belbo. Tutto era piccolo, annebbiato, lontano. Ci stavano intorno soltanto costoni e grosse cime a distanza. «Lo sapevi che Gabinella è così larga?» mi disse. Ci fermammo in coda una vigna, in una conca riparata da gaggie. C'era una casa diroccata, nera. Nuto disse in fretta: «Ci sono stati partigiani. La cascina l'hanno bruciata i tedeschi. Sono venuti due ragazzi a prendermi al salto una sera armati. Li conoscevo. Abbiamo fatto questa strada d'oggi. Camminammo che era già notte. Non sapevano dirmi cosa baracca volesse. Passando sotto le cascine, i cani abbaiavano, nessuno si muoveva, non c'erano lumi, sai come andava a quei tempi. Io non ero tranquillo. Nuto aveva visto acceso sotto il portico, vide una moto nel cortile, delle coperte, ragazzi pochi, l'accampamento l'avevano in quei boschi laggiù. Baracca gli disse che l'aveva fatto chiamare per dargli una notizia, brutta. C'erano le prove che la loro santa faceva la spia, che i rastrellamenti di giugno li aveva diretti lei, che il comitato di Nizza l'aveva fatto cadere lei, che perfino dei prigionieri tedeschi avevano portato i suoi biglietti e segnalato dei depositi alla casa del fascio. Baracca era un ragioniere di Cuneo, uno in gamba che era stato anche in Africa e parlava poco. Era poi morto con quelli delle canere. Disse a Nuto che però non capiva perché santa si fosse difesa con lui quella notte del rastrellamento. «Sarà perché gliele fai buone», disse Nuto, ma era disperato. Gli tremava la voce. Baracca gli disse che santa le faceva buone lei a chi voleva. Anche questo era successo. Fiutando il pericolo, aveva fatto l'ultimo colpo e portato con sé due ragazzi dei migliori. Adesso si trattava di pigliarla a Canelli. C'era già l'ordine scritto. Baracca mi tenne 3 giorni quassù. Un po' per sfogarsi a parlarmi di santa, un po' per esser certo che non mi mettevo in mezzo. Un mattino santa tornò, accompagnata. Non aveva più la giacca a vento e i pantaloni che aveva portato tutti quei mesi. Per uscire da Canelli si era rimesso un vestito da donna, un vestito chiaro da estate, e quando i partigiani l'avevano fermata su per Gaminella, era cascata dalle nuvole, portava delle notizie di circolari repubblichine. Non serviva a niente. Baracca, in presenza nostra, le fece il conto di quanti avevano disertato per istigazione sua, quanti depositi avevamo perduto, quanti ragazzi aveva fatto morire. Santa stava a sentire, disarmata, seduta su una sedia. Mi fissava con gli occhi offesi, cercando di cogliere i miei. Allora Baracca le lesse la sentenza e disse a due di condurla fuori. Erano più stupiti i ragazzi che lei. L'avevano sempre veduta con la giacchetta e la cintura e non si capacitavano adesso di averla in mano vestita di bianco. La condussero fuori. Lei sulla porta si voltò, mi guardò e fece una smorfia come i bambini. Ma fuori cercò di scappare. Sentimmo un urlo, sentimmo correre e una scarica di mitra che non finiva più. Uscimmo anche noi. Era distesa in quell'erba, davanti alle gaggie. Io più che Nuto vedevo Baracca, quest'altro morto impiccato. Guardai il muro rotto, nero, della cascina, guardai in giro e gli chiesi se santa era sepolta lì. Non c'è il caso che un giorno la trovino? Hanno trovato quei due. Nuto s'era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. Scosse il capo. «No, santa no», disse, «non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi». Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo finché bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L'altr'anno c'era ancora il segno, come il letto di un falò. Buongiorno, sono Roberto Galaverni, vi saluto dopo l'ascolto della Luna ai Falò di Cesare Pavese, interpretati e letti da Remo Girone, e sono qui per fare soltanto qualche osservazione di raccordo conclusiva. Anguilla, il protagonista del romanzo, dice a un certo punto della narrazione, dice proprio: quel che cercavo era soltanto di vedere qualcosa che avevo già visto. Quindi la ricerca, la quête, come si dice con un termine propriamente narratologico e narrativo, la ricerca di un'identità che per Pavese si configura sempre come ricerca poi di una ripetizione, di qualcosa che si è fissato una volta per sempre nei nostri occhi, nella nostra mente, nelle nostre percezioni e si vorrebbe ritrovare intatto. Da qui deriva che questa ricerca poi della Luna ai Falò genera una moltiplicazione di piani narrativi e di disposizioni narrative. Non a caso il ricordo e la memoria sono centrali in questo romanzo e sempre il presente, il ritorno sui luoghi in cui si era vissuto, viene attraversato e come sfondato, come se si trattasse sempre di aprire nuove porte dal ricordo e dalle inserzioni e gli inserimenti della memoria. Si crea in questo modo, con una strepitosa poi fusione da parte di Pavese, perché è una fusione realizzata proprio a livello basico della materia narrativa piuttosto che dell'intelligenza e dell'intelletto che arrivano dopo, non è questo un romanzo intellettualistico, si crea, una moltiplicazione dei piani narrativi, da una parte la rievocazione dell'infanzia, con questo asse tra Anguilla e il piccolo Cinto che ritrova su quegli stessi luoghi in cui Anguilla era cresciuto e in cui Anguilla vede una specie di proprio raddoppiamento, di proprio doppio, però ora visto con gli occhi della maturità. La ripresa della guerra, soprattutto ad opera di quell'altro alter ego di Anguilla che è Nuto, il clarinettista strepitoso che poi era diventato nella maturità per la responsabilità familiare un falegname, la guerra che ha segnato irrimediabilmente quei luoghi, per cui l'acquisizione della maturità di cui si parlava all'inizio è per molti versi si configura come la consapevolezza di una perdita e di un tempo che che sempre poi contraddistinguono la misura dell'esistenza umana, e poi gli squarci di ricordi delle permanenze americane, e poi anche il presente sempre, no, rivissuto attraverso questo sciaguattare della memoria. Il simbolo dei falò forse è il simbolo che poi compare nel titolo, che davvero racchiude tutto il romanzo. I falò, che originariamente per il narratore rappresentano la visione, il ricordo di questi falò che i contadini facevano per propiziare i cicli del raccolto e della natura, e quindi la pioggia, e che sono diventati invece il rogo terribile del podere di Gaminella da parte del Valino, in cui il protagonista era cresciuto, ma ancor più terribile il rogo della bellissima Santina, che i partigiani, appunto, dopo aver fucilato, bruciano in quanto collaborazionista. Quindi anche da questo punto di vista c'è la continua alternanza tra identità e perdita, tra il sogno e il respiro di una ciclicità in peritura, quello appunto che Pavese chiamava il mito, e la ferita, lo sfregio e la consapevolezza del tempo, della storia e della violenza anche dell'uomo. Un'ultima cosa: Anguilla, il protagonista del romanzo, nel suo stesso nomignolo, Anguilla, disegna una figura quasi universale, che è quella del senza patria, del senza terra. Negli stessi anni, nel 48, esce per esempio l'Anguilla di Montale, altra strepitosa incarnazione, insomma, di un simbolo di movimento e di ricerca. E anche il bastardo, con le parole stesse del romanzo, che Anguilla è e che viene definito, diventa metafora di una condizione esistenziale più ampia, quella appunto della perdita e di un'identità che è il ripetersi di una perdita e di una ferita. In questo senso la maturità a cui Pavese fa riferimento all'inizio del romanzo, e il romanzo stesso utilizza la parola crescere, è la consapevolezza non del non cambiamento, ma invece la consapevolezza e l'acquisizione, la crescita anche psicologica e mentale, che comporta la presenza, insomma, dello sradicamento, del disorientamento e anche della perdita delle cose amate. Vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di Radio 3 Rai.